Yes, okay. Mm-hmm.

so, sono terribili, so, a meno che non so quello che... Sì. Ma io lo... Allora, la prima volta dentro lo stanzino, sai lo stanzino dove sta la caldaia? Lì che c'ho le tende, lì dentro, non ti dico per farlo uscire, chiamate i vigili, ha detto no, al primo piano non veniamo, se al terzo, quarto piano sì, se no, ma me lo sono dovuto vedere da solo, per cui, insomma, e invece mo, eccoci, insomma, mo... No, no, che scherzo. Beh, che io facevo lasciavo, scusa. No, no, figurati. Ho capito, se fa male. Sì, lo so. Ma ormai mi sono diventato esperto. Sì. No. Sì. Come no? Sì, finisco le altre facce. Ciao, bonsoir, alla prochaine, telefono, pardon, chiedo scusa, alla prochaine, ciao.